e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi. Il mondo non è di chi si alza presto, il mondo è di colui che si alza felice di alzarsi. Questo è il messaggio che abbiamo scelto oggi per iniziare, è un messaggio che ci ha scritto Paolo da Como, e allora vi facciamo questa proposta: tirate proprio fuori lo scrittore che c'è in voi, mandateci i vostri messaggi, i vostri pensieri, quell'idea che vi accompagna durante la giornata, quella cosa che vi aiuta a iniziarla bene, a tirarvi su. Che dici, Deborah? Ah sì, mi pare un'iniziativa carina. Guarda, ti raccolgo questa sfida, come sempre connotandola con un po' di soldoni, perché mi piacerebbe anche che i nostri ascoltatori magari ci raccontassero se la mattina si alzano. Mi rendo conto che magari un proposito così un po' più freddo e magari meno gradevole, però se hanno il proposito finanziario del giorno, se ce lo raccontano, se vogliono condividerlo con noi. Non so, voglio andare in banca a rinegoziare il conto corrente, oggi metto da parte 5 euro, oggi faccio il PIN dispositivo per fare l'estratto conto contributivo, oppure oggi inizio a camminare un pochino di brava, esatto, rinuncio allo zucchero nel caffè, faccio qualche sorriso anche alle persone che non mi stanno tanto simpatiche. Ma quella è veramente, ecco, come a Carmelo, che ce lo guardiamo lì, invece no, lui ci sorride sempre, infatti. Allora, sorridendo iniziamo. Iniziamo la nostra rassegna stampa oggi con la parte di denari, cominciando naturalmente come sempre dando un'occhiata alla borsa, che in questo periodo sembra molto serena. Questa mattina, dopo la buona giornata di ieri, gli indici sono ripartiti bene. In Europa adesso Parigi è sulla parità, Francoforte guadagna lo 0,24%, Londra leggermente negativa, Milano più 0,19%. Sembra un momento favorevole grazie anche al recupero del prezzo del petrolio. Stamattina viaggia fra i 44 e i 45 dollari al barile, sia il Brent a Londra che il WTI americano. Questa situazione del petrolio ha permesso ieri sera a Wall Street di chiudere peraltro su nuovi massimi, sopra soglie psicologiche importanti, per il Dow Jones sopra i 18.000 punti, per lo Standard & Poor's sopra i 2.100. Per quello che riguarda invece il petrolio, il tema è che c'è tutta una serie di voci su un possibile incontro fra i paesi membri dell'OPEC e non membri dell'OPEC in Russia il mese prossimo, voci che hanno riacceso le speranze per un congelamento della produzione, speranze che ricorderete erano tramontate domenica scorsa quando un meeting simile era finito a Doha in Qatar con un nulla di fatto. Per quello che riguarda la giornata finanziaria, oggi c'è l'attesa riunione della Banca Centrale Europea, che comunque dovrebbe concludersi senza novità sul fronte della comunicazione e orientamento della politica monetaria. Altre notizie riguardano una giornata sempre di borsa, perché c'è un grande e necessario attivismo da parte della Consob, che sta dando il via libera a numerose operazioni. Ne abbiamo parlato questa mattina anche nel corso dei giornali radio. Il primo via libera riguarda l'operatività del Fondo Atlante, il fondo di stabilizzazione bancaria. La società che lo gestirà, Questio SGR, proprio poche ore fa ha fatto sapere di aver raccolto adesioni per un importo di oltre 4 miliardi di euro da 44 istituzioni italiane ed estere. La prima prova del fuoco per il Fondo Atlante è quello di sostenere la ricapitalizzazione della Popolare di Vicenza, e anche stamattina la Consob ha dato il via libera al prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione delle azioni della Banca Popolare di Vicenza. Il periodo di offerta parte proprio oggi, durerà fino al 28 aprile. Ricordiamo che la forchetta di prezzo fissata nei giorni scorsi va tra 0,10 euro e 3 euro per azione. Via libera della Consob anche al prospetto informativo per la quotazione in borsa di Tecnogym. Velocemente è arrivato ieri anche il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri al cosiddetto decreto mutui, il decreto legislativo che attua la direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. È stata confermata l'estensione a 18 mesi di rate mensili non pagate, soglia oltre la quale si ha un inadempimento da parte del consumatore e si rischia il pignoramento della casa da parte della banca senza passare dal tribunale. Oggi su questo argomento tutte le novità sono sul Sole 24 Ore, e domani direi che questo sarà anche un tema che approfondiremo a cuore denari. Per i denari invece della nostra rubrica del giovedì di oggi, investire informati dedicata ai piccoli risparmiatori, ai loro dubbi e alle loro esigenze, queste scelte oggi si basano sempre di più non solo su criteri legati alla convenienza, non si cercano soltanto investimenti remunerativi, ma a volte il criterio può essere anche un altro. A molti risparmiatori sta a cuore anche il risparmio etico e oggi proprio di finanza etica parliamo ad Investire Informati. E per quanto riguarda il cuore, partiamo subito con una buona notizia: con zero casi nel 2015 l'Europa è malaria free, lo annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanità in vista della giornata mondiale dedicata alla malattia il prossimo 25 aprile, spiegando che la regione europea è la prima al mondo ad aver fermato la trasmissione della malattia nel suo territorio. Insomma, il vecchio continente centra così l'obiettivo di sconfiggere la malaria che si era posto proprio per il 2015. Come preannunciato nelle scorse settimane, da ieri è scattato l'aumento dei pacchetti di sigarette. Potrebbe non essere finita qui. Dopo la prima tranche, nei prossimi giorni non sono esclusi nuovi rincari, insomma i nostri denari rischiano di andare in fumo. E allora questa potrebbe essere forse una buona occasione per smettere di fumare, e di come farlo ne parliamo tra poco con una nostra esperta. Anche voi potete naturalmente dire la vostra al nostro numero verde 800 24 00 24. E per chiudere, una notizia legata all'alimentazione: sono seminutrienti per un futuro sostenibile. Così ha definito i legumi Edoardo Mansur, direttore della divisione Terre Acqua della FAO, al recente evento Suoli e Legumi, organizzato in occasione dell'Anno Internazionale dei Legumi. È un appuntamento sicuramente utile per mettere in luce il promettente futuro dei semicommestibili. Lenticchie, ceci, piselli, lupini, fagioli di soia sono versatili in cucina, costano poco e fanno bene alla salute per tante ragioni. Ricordiamole: contengono molte fibre che, rallentando l'assorbimento degli zuccheri, favoriscono così un miglior controllo della glicemia e aiutano a mantenere il peso. Non solo, per la presenza delle fibre anche l'impatto sul colesterolo alimentare viene ridotto e questo aiuta il cuore. Ci sono quindi tanti ottimi motivi per consumare più spesso legumi freschi, secchi o surgelati. E un'altra informazione: per evitare l'effetto gonfiore, cucinateli con le spezie o aggiungete anche un pezzettino di alga kombu, detta anche il cavolo di mare. Si consuma essiccata in fiocco in polvere, la trovate facilmente nei negozi alimentari giapponesi, nei negozi di prodotti biologici o specializzati. E adesso passiamo in cucina. È tempo di piselli e questa è la loro stagione. Sono molto delicati e dolci, a me piacciono addirittura anche crudi. In linea con noi Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi di Alessandria. Ciao Andrea, bentornato. Ciao Nico, ciao a tutti. Allora, una ricetta davvero primaverile e velocissima con i piselli. Hai detto bene, a crudo i piselli sono straordinari, quindi il mio consiglio è: anche surgelati, se li avete in casa, oppure freschi sarebbe il massimo, li frullate direttamente in un frullatore ad immersione con un po' di acqua calda e un pochissimo sale. Vedrete che il gusto rimane intenso e vegetale, anche il colore è straordinario, perché se li avete surgelati, tra l'altro il consiglio è proprio acqua bollente e i piselli ancora surgelati, così il colore rimarrà di un verde intenso. Il sapore vegetale, viene questa salsa, questa crema, senza aggiunta di nient'altro, non c'è bisogno di grassi, al limite un goccino di olio extravergine. E poi il mio consiglio per questa stagione è un uovo da abbinare a questa crema. L'uovo lo cuociamo, acqua che bolle, 5 minuti esatti di cottura, lo raffreddiamo, col guscio lo sgusciamo, sarà formato esternamente, morbidissimo all'interno, quindi quando lo aprirete insieme alla crema di piselli sarà davvero straordinario. E se volete finire con un tocco primaverile, fiori di rosmarino, che adesso proprio la stagione cominciano adesso, danno un profumo unico. Fantastica, mi viene già fame. Allora, è un po' presto, sono le 10.44. Insomma, mica tanto. Senti, ma come si fa a non far rompere l'uovo quando lo mettiamo nell'acqua bollente? Allora, di cotture ce n'è tante possibili. L'importante è: l'uovo non deve essere ghiacciato dal frigo, cioè lo tenete fuori un paio d'ore prima, in modo che con l'aiuto di un mestolino lo adagiate sul fondo del pentolino con l'acqua già che bolle, mi raccomando, abbassate la fiamma in modo che il bollore non sia eccessivo, vedrete che non si rompe. E allora, se volete essere accompagnati passo passo nelle fasi della ricetta, andate sulla pagina di Cuore Denari e c'è il video di Andrea Ribaldone, che è anche un bel ragazzo, e quindi lo vediamo anche volentieri. Ma grazie, grazie Andrea, ragazzi. Vedi che ce n'è anche per te. Allora, adesso noi andiamo a sentire le informazioni sulle strade. Nel frattempo, mi raccomando, voi non litigate, perché Deborah, ho letto che per un italiano su due litigio in macchina col partner è quasi inevitabile, direi un classico. È il mezzo proprio che scatena di più litigi di coppia in assoluto. Si litiga per lo stile di guida, per la ricerca del parcheggio, per la musica da ascoltare, discussioni accese anche per l'apertura e la chiusura dei finestrini, per le troppe indicazioni di guida, quelle che mi dai tu, gira di qua, gira di là, fai di qua, eccetera, sempre, o anche di percorso, e inoltre per la regolazione del volume della musica e per il fumo. Allora, siete alla guida? State litigando? Fumate? Restate. Cuore e denari. Tempi duri per i fumatori. Dopo la stretta sul fumo arrivano i rincari sui prezzi delle sigarette, circa 20 centesimi in più a pacchetto. Chissà che questa nuova stangatina, Deborah, aiuti. Deterrente economico solitamente funziona, ma... Vedi, deterrente economico aiuti chi sta pensando di smettere a fare il grande passo. Se siete lì per farlo, fatele ora, fissate la data e poi spegnete l'ultima sigaretta e basta. Un taglio netto, zan. Faticoso ma efficace, sembra che questo sia proprio il metodo più efficace per smettere. È confermato anche dalla ricerca. L'avete sperimentato? Soddisfatti? Raccontatecelo. Intanto, buongiorno alla dottoressa Licia Siracusano, oncologa, referente del Centro Antifumo di Humanitas Cancer Center. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie all'invito. Buongiorno, grazie a voi. Allora, dottoressa, la motivazione decisiva per smettere di fumare in chi decide di chiudere definitivamente col fumo, evidentemente non si sa come, scatta qualcosa che lo mette poi nelle condizioni di andare sino in fondo. Però mi chiedevo, no? Chissà quante volte noi abbiamo pensato di smettere, siamo stati lì per farlo, ma poi magari l'idea di non riuscire, di fare troppa fatica, di ricadere, ci ha fatto desistere. Allora, forse non abbiamo colto l'attimo, no? Forse sarebbe stato quello giusto. Dottoressa Siracusano, per la prossima volta, come possiamo riconoscere il momento buono, non farlo scappare? Ma io penso che ogni fumatore tutti i giorni decida o pensa di smettere di fumare. Poi capita qualcosa che lo fa desistere, perché comunque la sigaretta rimane la stampella per affrontare la giornata, ed è questa la componente che ci indica la dipendenza psicologica della necessità della sigaretta come dipendenza psicologica. Ogni attimo è buono. Io sono d'accordissimo sull'idea che per smettere di fumare definitivamente occorre buttare via il pacchetto della sigaretta, superare l'astinenza che dura al massimo 14 giorni, dopodiché si è fuori da un tunnel che è il tunnel della dipendenza. Purtroppo le crisi di astinenza possono essere più o meno importanti, tutto dipende anche dall'individuo, dalla qualità della vita, ma soprattutto dalla motivazione, quanto veramente vuoi smettere. Quello è un quid che è personale. Non, il nostro dovere è quello di informare continuamente la persona sui danni da fumo, per stimolare continuamente ad indurre la motivazione a smettere. Due settimane di disagio e poi siamo fuori. Due settimane di disagio durante le quali bisogna assolutamente impegnare il cervello e distrarlo in altre situazioni, in altri atteggiamenti, per superare quel vuoto dalla mancanza della sigaretta, di quell'ora, di quel momento della giornata, e compensarlo con qualcos'altro. E non deve essere cibo, però, Non deve essere necessariamente cibo, anzi, meglio non sia cibo. 800 24 00 24, abbiamo Ugo che ci chiama da Arezzo. Buongiorno, Ugo. Buongiorno, volevo dare una testimonianza a riguardo. Sì. Allora, io sono 6 anni che ho smesso di fumare e chiaramente sono tornato di nuovo a vivere, quindi riassaporando i sapori e nello stesso tempo non avendo più il fiatone. La motivazione è stata quella di io ne fumavo 40 al giorno, non mi davano nessun tipo, diciamo, di fastidio da dover per forza smettere, e sono stato 2 mesi fumando la sigaretta senza respirarla. E poi, chiaramente, essendo una questione di cervello, quindi francamente sono d'accordo con la signora di prima, ho distratto chiaramente e non ho avuto più la necessità di comprarle, quindi dopo 2 mesi fuori, diciamo, ho smesso fuori di dal tunnel. Grazie Ugo per la sua testimonianza, dottoressa. Smettere subito, secondo questa ricerca di Oxford, sembra più efficace che smettere poco alla volta, no? Ma quale strategia funziona? Ci fa un elenco dei metodi che risultano più efficaci, una sorta di classifica? Ma diciamo che è il centro antifumo che completa un po' tutte, diciamo, la sintesi dell'aiuto che ti si può dare. Il centro antifumo è il posto dove ti viene offerto un supporto farmacologico per superare la dipendenza fisica, quindi la crisi di astinenza, e un supporto psicologico per aiutarti a inventare un po' degli escamotage per superare il vuoto della sigaretta durante la giornata, quindi per superare un po' la dipendenza psicologica, per inventarti un nuovo stile di vita. I farmaci ce ne sono abbastanza tanti, dai cerotti alla nicotina. No, la fermo un secondo per dare delle indicazioni ai nostri ascoltatori. Centri antifumo sono su tutto il territorio nazionale. Assolutamente. Noi sì. Riportiamo sempre l'elenco perché ancora ci sono tante persone che non le conoscono o magari scotomizzano la cosa. Bravissimo. Come ci si fa? Quanto costa rivolgersi ai centri antifumo? Posso andare direttamente, mi presento lì, devo passare dal mio medico? Facciamo un ABC, devo passare dal mio medico di famiglia che mi fa una sorta di impegnativa, c'è il ticket, dottoressa. Ma non è uguale per tutti. Diciamo che ogni centro antifumo ha le proprie regole. Per esempio, personalmente nel nostro centro antifumo del nostro ospedale noi utilizziamo un unico ticket che comprende 8 incontri con me e con la psicologa, per cui è abbastanza agevole avvicinarsi a questo centro antifumo. Altri possono prevedere un ticket per ogni incontro. Per sapere esattamente che cosa ti aspetta, ci si può collegare al sito OSPAD cercando il centro antifumo più vicino alla tua casa, alla tua regione, e lì chiedere fondamentalmente come funziona. Quali percentuali di successo avete nel far smettere di fumare come centri antifumo? L'avete misurato? Ci sono percentuali di successo che vanno dal 9% al 25%. Però questo dipende che cosa si intende, nel senso che nel nostro centro antifumo abbiamo valutato i pazienti a un anno di astinenza e il 25% risulta essere ancora astinente, però dopo un anno difficilmente stai lì a controllare, cioè le persone non tornano più, quindi comunque le avete traghettati dall'altra parte, infatti, diciamo così. È un anno li monitori. Dottoressa Siracusano, ci sono anche dei farmaci per smettere di fumare, ne abbiamo parlato tante volte, ci sono anche delle interviste di approfondimento sulle nostre pagine che abbiamo fatto con il suo collega, il dottor Roberto Boffi, soprannominato da noi dottor antifumo, ma ci sono anche delle novità. Noi sappiamo che a differenza che in altri paesi i farmaci si pagano, nel nostro paese, in Gran Bretagna ad esempio, sia i centri che i farmaci per la disassuefazione del fumo sono gratuiti, questo spiega anche un po', no, le percentuali di fumatori ed ex fumatori. Ma chiudo rapidamente la parentesi per chiederle, ma volevo dare questa indicazione, forse aiuterebbe, ci sono delle novità che abbiamo importanti, raccontiamole ai cuori e denarini, agli ascoltatori di Cuore e Denari. Allora. Ma la novità fondamentale è che da luglio di quest'anno è in commercio un farmaco che si chiama Citisina, è un farmaco galenico che vuol dire preparato dalla farmacia, è un farmaco che agisce un po' come diciamo la vareniclina, cioè blocca i recettori della nicotina che sono nel nostro cervello, ha un costo assolutamente accessibile alla popolazione generale, ha una durata di tempo di circa 1 mese e mezzo che secondo me quella è importante, perché è quella che ti copre sull'astinenza, sulla difficoltà, si chiama craving, cioè sulla voglia di fumare, nel momento più difficile della tua vita, cioè il momento in cui decidi di smettere di fumare devi superare quel 1 mese e mezzo da sola, ti devi reinventare una vita. Questa è la novità sicuramente di quest'anno, che secondo me rapporto qualità-prezzo assolutamente a favore per stimolare la prevenzione. Allora, si chiama Citisina, un galenico che aiuta da una mano ai fumatori. Grazie dottoressa Siracusano per essere stata con noi. Se grazie volete scriverci per approfondire, per fare le domande ai nostri esperti, cuoredenari@radio24.it. Smettete, ma ascoltate il GR. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend, ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Cuore e denari. Il sole è arrivato, Deborah. Meno male, guarda, non sono però ancora tanto convinta perché sto weekend che arriva credo che ci sia ancora un colpetto di coda non gradevole. E arriva Medusa, l'ultimo colpetto di coda dell'inverno. Naturalmente usiamo il condizionale perché poi magari... Sì, le previsioni del tempo, c'è l'altro grande dibattito su quanto ci azzecchino meno, ma... Perché sennò il turismo va giù, esatto, vedi? Infatti, quindi è probabile... che magari dobbiamo tenere a portata di mano il piumino, ma magari la scarpa esce. Chiusa, no? Però esce, fai conto, proprio un frizzichino di sole e noi questa subito, è la stagione, che iniziamo. Ci spalmiamo lì sotto. Iniziamo un po' a scoprirci, se non lo facciamo questo weekend sarà il prossimo, no? Mamma mia, e scoprendoci notiamo delle cose, ci scopriamo sempre diversi, no? Ti vedi la pelle sempre un po' più macchiata, più grigetta, più giallina, una schifezza. Allora ci facciamo aiutare dal professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a chi si ascolta. Che non può fare miracoli, però ci può raccontare qualche cosa sulla nostra pelle. Innanzitutto aiutarci a giocare così sulla prevenzione. Professore, in primavera, quando guardiamo, ci scopriamo un po' di più, notiamo che la nostra pelle ha delle macchie che, non lo so, nell'inverno non avevamo notato, no? Sono un po' bianche, rosse, nere, color caffè latte, piane, in rilievo, lisce, irregolari, singole e multiple, insomma, possono essere di vari tipo, possiamo averle sin dalla nascita, comparire nel corso della vita, possono cambiare di colore, insomma ne fanno un po' di tutte. Professore, ci impresti il suo occhio clinico per lustrare la nostra pelle palmo a palmo, dalla testa al piede, in modo che quando lo faremo noi, ai primi soli, togliendoci, no, i vestiti per metterci magari un po' in così a prendere un po' di tintarella, noi siamo già tranquillizzate, avvertite, sappiamo già dove far cadere l'occhio. Bene, diciamo subito che qualsiasi malattia della cute è caratterizzata da macchie, ma naturalmente questo ci porterebbe troppo lontano. Vediamo un attimino la sua domanda. Ci sono macchie che devono richiedere particolare attenzione? Ecco, direi che per esempio, così cerchiamo di sintetizzarla, una persona che ha superato i 50 anni, che ha una pelle particolarmente chiara, che nelle zone solitamente esposte al sole, diciamo quindi il viso, il dorso delle mani, gli avambracci, nota, non da subito, casomai l'ha notato negli anni, ma adesso che si scopre lo nota di più, delle macchioline rose di colore appunto variabile, un pochino rosa o rosso intenso, qualche volta ricoperte da piccole squamette, da piccole crosticine, diciamo noi le chiamiamo squame in verità. E che cosa potrebbero essere? Potrebbero essere, ma per carità, stiamo tranquilli, delle cheratosi attiniche. Le cheratosi attiniche sono delle precancerosi. Adesso nessuno che deve aver paura di avere immediatamente lo sviluppo di un tumore, quindi stiamo calmi. Ma queste macchiettine che stanno lì da tempo e che adesso notiamo di più, potrebbero essere. Allora che cosa si fa? Beh, si va dal dermatologo, perché? Perché queste cheratosi attiniche, lasciate lì per anni, anni ed anni, potrebbero dar luogo a un tumore. Quindi la prima attenzione è cosa sospettare e che cosa fare. Andare dal dermatologo se si vedono queste squamettine su zone rose, fronte, zigomi, cuoio capelluto degli uomini senza capelli, dorso delle mani. Décolleté? Anche. Anche décolleté, certo, delle signore. Però attenzione, qui parliamo di persone che hanno superato un certo limite di età e che hanno un incarnato particolarmente sensibile alla luce solare. Queste possono essere quelle sospette. Poi, se andiamo nelle macchioline scure, di piccole dimensioni, intendiamo, quindi parliamo di 3-4 mm fino a 1-2 cm, bene, che cosa potrebbero essere? Beh, i soliti, quelli noi chiamiamo nei, noi dermatologi chiamiamo nei melanocitici. Ora voglio fare una piccola puntualizzazione, si dice spesso faccio un controllo dei nei, in realtà noi dermatologi non controlliamo i nei, noi andiamo alla ricerca di qualche cosa che tra i tanti che sembrano nei, neo potrebbe non essere. Quindi noi andiamo a caccia dell'eventuale melanoma. Tenga presente che su 10 melanomi solo uno nasce da un neo preesistente, secondo i dati che noi abbiamo, i rimanenti, quindi il 90% e più, nasce d'amblè, nasce da solo, così com'è. Quindi il dermatologo non fa un controllo dei nei, ma cerca tra quelle macchie se c'è il melanoma e ha degli strumenti particolari per vederlo. Quindi, professor Monfrecola, il secondo messaggio è: guardate la vostra pelle, se notate un neo che prima non c'era, ecco, individuatelo, localizzatelo bene al primo controllo, fatelo, sottoponetelo all'attenzione del vostro dermatologo. È proprio così. Professore, funziona ancora la regola dell'alfabeto per i nei? Funziona ancora, funziona bene per come non autodiagnosi, ma come diciamo screening grossolano che chiunque di noi può fare, ovviamente. E quindi, cioè, la ripete, che così la ripassiamo, perché di primavera in primavera sa si dimenticano le cose. L'ABCD, no? E quindi abbiamo A come asimmetria, quindi un neo che non è ovalare o rotondeggiante, ma piuttosto asimmetrico. B come bordi, andiamo a guardare bene se sono frastagliati o sono regolari. E C come colore. Di come dimensioni, cioè si è cresciuto rapidamente. Ecco, ma naturalmente tutto questo va non preso con angoscia, intendiamoci, è l'autoesame che uno si fa regolarmente da solo e poi nell'eventualità ci sia qualcosa, medico curante e dermatologo, questa è la procedura adatta per poter stare sereni e quindi non avere poi sorprese nel futuro. Quindi molta serenità, ma molta anche attenzione, perché la prevenzione è la cosa migliore, la prevenzione e soprattutto la diagnosi precoce. Professor Monfrecola, a proposito di prevenzione, si possono prevenire, giocando in anticipo, eventuali macchie che notiamo poi dopo, alla fine dell'estate, dopo l'esposizione solare? Si può giocare un pochino d'anticipo? Sì, certamente. Dunque, diciamo che in linea di massima, dopo l'estate, molte persone possono avere la pelle un po' macchiata e ce ne sono di vario tipo. Per esempio quelle cosiddette di età, per così dire, cioè la persona che vede che quelle macchioline che aveva, che vedeva nel tempo, sono diventate più evidenti. Questo capita moltissimo, si vedono queste che sono le cosiddette lentiggini senili, è un brutto termine per alcuni. Ma chiamiamole solo lentiggini, esatto. Che poi uno capisce che orecchie per intendere intenda. Le lentiggini dell'esperienza. Certamente sì. Allora, che cosa sono? Sono qualcosa che innanzitutto ha una base genetica, non tutti quanti andiamo incontro a quello, quindi c'è chi le farà e chi non le farà, ma poi, come sempre accade, alla genetica si sovrappone la condizione ambientale. Tutte le volte che, diciamo, mi sono esposto. Ora, per prevenirle in maniera totale, dovremmo fare una cosa che non si riesce, non si può fare, essere sempre perfettamente protetti dal sole fin dalla più tenera età. Insomma, e ci perderemo già anche tutti i vantaggi dell'esposizione solare, perché via, non va demonizzato. No, poi... assolutamente, lei sa bene, come abbiamo sempre detto, che il sole ha tantissimi vantaggi, non vivremmo bene senza la luce solare, che fa tantissime cose, tipo per esempio produrre i cosiddetti peptidi antimicrobici, cioè sostanze che ci proteggono, oppure avere la capacità di sintetizzare vitamina D, insomma tantissime altre funzioni, ma poi naturalmente fa delle cose. Ora, per quanto riguarda le macchie, la prevenzione totale andrebbe fatta molto in anticipo, cosa impossibile. Invece noi possiamo farlo ovviamente con l'avvicinarsi della stagione buona, evitando quello che normalmente sappiamo, le fotoesposizioni, quindi applicando prodotti fotoprotettivi e utilizzando una dieta adatta. Per quanto riguarda le macchie che già ci sono, qualcuno potrebbe avere in mente di poterle attenuare, smacchiare, smacchia la macchia. Smacchia la macchia, esattamente. E questo si può fare, però non è il caso di farlo ora, perché siamo in corrispondenza dell'estate e quindi cercare di smacchiare quelle macchie proprio adesso che c'è la maggiore esposizione al sole non è il caso, quindi bisognerà aspettare bene o male che sia passata la stagione soleggiata per poter ricorrere a dei trattamenti che tutti quanti ben conosciamo, ma che comunque possiamo così sintetizzare rapidamente in trattamenti che si possono fare con peeling ripetuti, ma peeling di carattere medico, crioterapia o laser terapia. Questo può servire per togliere quelle macchie scure, che qualche volta diventano anche un po' rilevate. Non so se ha mai notato che certe volte formano come degli spessimenti, delle zone un po' rilevate, addirittura un po' squamose. Professore, io non ho l'età, io e Deborah non abbiamo ancora l'età. Siamo troppo ragazzine. Delle lentiggini, dell'esperienza, professore. Allora, ringraziamo il professor Monfregola per tutte queste indicazioni importanti. Ancora ne rubo una. Prego. Se Medusa decidesse di tornare indietro e quindi noi avremmo la possibilità quindi di scoprirci un po'. Molte persone proprio quando iniziano a farsi baciare dal sole dopo i mesi invernali si trovano tutte cosparse di pustoline, eczema, eritema. Utilizziamo spesso queste parole come sinonimi, che sinonimi non sono, ma insomma quel rossore puntiforme che copre la pelle, pruriginoso, in alcune persone spesso con pelle chiare dopo l'esposizione solare, le prime esposizioni solari. Sì. Allora, non lo chiamiamo più eritema solare, eritema solare significa arrossamento e basta, quella lì è una malattia che si chiama dermatite polimorfa solare. Colpisce in genere donne, questi piccoli puntini, che le chiamo puntini, si chiamano papule arrossate pruriginose. Che cosa fare? Lo si sa che la persona è predisposta, quindi nelle primissime esposizioni la gradualità espositiva con protezione. Perché? Perché si sa che se si insiste gradualmente con l'esposizione si ha un fenomeno che chiamiamo di hardening, cioè in altre parole la dermatite tende a sminuire da sola e quindi ad autorisolvere. Se questo non fosse, ovviamente il dermatologo è a disposizione per dare i consigli adatti. È una sorta di svezzamento, dobbiamo far digerire alla nostra pelle poco a poco il sole, piccoli, no? Come se avesse difficoltà a digerirlo, allora iniziamo a piccole dosi, Medusa permettendo. Professor Monfregola, grazie, buona giornata. Grazie moltissime. Allora, andiamo un po' a parlare dei nostri soldini oggi. Lo raccontiamo spesso, sapete quanto sono diventati suscettibili e nervosi negli ultimi tempi i mercati finanziari, anche se nelle ultime giornate in realtà abbiamo dato prevalentemente, per fortuna, buone notizie. E i risparmiatori, di fronte a questi scenari anche abbastanza inediti in certi momenti, che si sono manifestati, hanno manifestato a loro volta tutto il loro disorientamento. Non si fidano più della finanza tradizionale, o quantomeno hanno, come dire, adesso adottato un atteggiamento forse un pochino più distaccato, se vuoi, più consapevole rispetto a quella che viene considerata finanza tradizionale. Molti di loro che cosa fanno? Cercano di capire se ci sono delle alternative per allocare decentemente il proprio risparmio. In più, dopo i numerosi casi di risparmio tradito, le banche risolte, le obbligazioni subordinate, quindi facciamo degli investimenti dei quali non conosciamo bene le caratteristiche, è ritornato appunto anche per tutte queste ragioni, ma non solo, a riproporsi il grande tema dell'etica finanziaria o della finanza etica. E ci sono diversi elementi che stanno spingendo il variegato mondo degli investitori verso nuove strategie di diversificazione dei rischi del loro portafoglio. E allora è questo il tema del quale parliamo oggi nella nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Tra l'altro, cara la mia Nicoletta, mi hai dato, come al solito, con l'approfondimento che hai fatto nella prima parte di Cuore Denari, sull'aumento dei pacchetti di sigarette, quindi l'aumento del costo, esatto, del pacchetto, certo, di sigarette. Quindi il tema è che, per esempio, i professionisti, i gestori di fondi di investimento etici, dei quali parleremo anche nel corso della nostra trasmissione, per esempio, tra le strategie di investimento che adottano è quella di non investire sulle società produttrici di tabacco. Vedi? Esatto. E quindi, insomma, facciamo rete. Allora, chiedo intanto ai nostri ascoltatori se hanno mai fatto una scelta di investimento di risparmio legata al principio etico, basandosi sul principio etico, un conto in banca, un investimento. Come avete scelto? Ne siete contenti oppure ci avete pensato ma poi ci avete rinunciato? Perché in realtà il panorama italiano, che rende disponibili soluzioni di investimento basate appunto sul principio etico, non ce ne sono molte oppure non sono molto conosciute, per cui anche per questo noi oggi abbiamo deciso di fare questa trasmissione. Intanto vi presento subito gli ospiti con i quali intratterremo volentieri appunto una conversazione su questo argomento. Grazie per essere con noi ad Alessandro Messina, direttore generale di Banca Etica. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. A voi. Senti com'è allegro, contento di poter parlare una volta tanto in radio di questo argomento. Ha ragione. Siamo contenti anche noi. Sarà altrettanto contento Nicola Trivelli, CEO di Sella Gestioni, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Di raccontarci di tutta anche la loro... Anche lui mi sembra molto contento, vedi dalla voce. Ma sai perché è contento? Anche perché Sella Gestioni ha fatto una cosa molto interessante di recente. Io l'ho conosciuta, questa loro iniziativa, al Salone del Risparmio, al quale abbiamo partecipato proprio un paio di settimane fa. Loro non solo gestiscono dei fondi di investimento con questi criteri che vengono definiti socialmente responsabili, ma hanno addirittura pubblicato un'iniziativa che hanno presentato proprio in occasione del Salone, il report di impatto. Quindi hanno proprio una fotografia molto dettagliata sulle politiche di investimento dei loro fondi e ti raccontano esattamente dove mettono i loro soldini, per cui per il risparmiatore molto trasparente, assolutamente, e questo forse è la cosa più importante della finanza etica, questa totale trasparenza che c'è nei confronti del risparmiatore. Allora, naturalmente il numero verde ve l'ho ricordato, se volete potete anche scriverci al 349 238 6666. Poi vi voglio anche raccontare di una curiosità, perché per chi si volesse appassionare un po' di più a questo mondo, ci sono anche dei corsi di introduzione al mondo della finanza etica che troviamo su internet, ce ne sono anche di livello qualitativo molto alto, ce n'è addirittura uno, adesso vi do tutti i parametri, offerto dal MIT di Boston, e quindi adesso andremo a darvi anche tutti i parametri per poterlo andare a seguire se volete. Comunque cominciamo un po' con il mondo della finanza etica e con il mondo di banca etica. Alessandro Messina, il vostro mondo appunto è cresciuto parecchio negli ultimi anni, oggi voi avete qualcosa come 45.000 clienti, che mi rendo conto che rispetto ai colossi del credito tradizionale magari può apparire una piccola cifra, ma loro non fanno grandissime pubblicità perché cercano di farsi conoscere attraverso, non dico dottor Messina il passaparola, ma forse anche attraverso quello. Non siete, come dire, protagonisti di imponenti campagne di marketing e pubblicitarie. Oggi il vostro mondo che cosa ci racconta? Ci dia qualche cifra per raccontarci la vostra realtà. Innanzitutto Banca Etica è un grande movimento di persone, cittadini, che 20 anni fa hanno deciso che volevano una banca diversa, e ancora oggi noi abbiamo questi soci che sono, oltre a essere formalmente nostri soci, sono dei persuasi e dei profeti in qualche modo della finanza etica, che in giro per i territori fanno quello che altrimenti per noi sarebbero costosissime campagne di promozione, e lo fanno ovviamente a titolo del tutto disinteressato perché ci credono. I profeti della finanza, veramente è un concetto abbastanza curioso, però insomma mi piace anche averne parlato, come dire, cercando di spiegare anche la vostra attività. Messina. È un'attività che spiega perché serve una finanza diversa, e forse il termine profeti suona eccessivo, però quando ci si trova di fronte a dei moloch culturali occorre anche un po' guardare in alto per trovare, come dire, l'ispirazione, no? Il punto è che noi oggi vediamo per esempio nella fine dell'anno del 2015 una crescita dei clienti del 13%, e appunto, come lei ha detto, senza fare una campagna di comunicazione, se non qualcosina sul web, che è un po' il nostro strumento. Voi andate principale a molte manifestazioni sul territorio, a festival, partecipate, pubblicate anche tanti libri, noi ne abbiamo presentati anche diversi nel corso delle nostre trasmissioni in passato. Ma dottor Messina, quando un cittadino, un consumatore, un cliente di una banca, un risparmiatore cerca banca etica esattamente, che cosa lo muove verso di voi? Proprio un principio etico, oppure è proprio scoraggiato rispetto alle tendenze che la finanza tradizionale ha manifestato negli ultimi anni e che purtroppo tendono anche a ripetersi certi episodi, per cui non è che dici una volta interrompi, no, un ciclo e ne ricomincia un altro. In realtà, come dire, un po' la finanza racconta sempre delle solite cose, per cui il consumatore evidentemente è un po' scoraggiato da tutto questo, cerca voi anche per queste ragioni? Ci sono almeno tre ragioni che noi abbiamo identificato nella psicologia del socio, cliente, chi si avvicina a banca etica. La prima è quella della prima ora, diciamo così, di quelli che ci hanno creduto fin dall'inizio, la ricerca di una finanza che si pone le domande sugli effetti del denaro. Quindi una finanza che fin dai suoi momenti fondativi vuole lavorare in modo da garantire che il denaro che entra in quel circuito vada poi in circuiti virtuosi. Quindi, come lei ha detto, ad esempio nel caso degli investimenti con risparmio gestito, non finanziare armi, non finanziare tabacco, gioco d'azzardo, energia nucleare, eccetera, eccetera. Quindi un primo approccio è l'esternalità che genera la finanza. Il secondo approccio è l'inclusione, l'accesso, cioè approcciare la finanza etica perché il resto del sistema non è inclusivo. Quindi parliamo qui dell'offerta di credito per soggetti che tipicamente non avrebbero facilità di accesso, come possono essere persone a basso reddito o anche imprese micro, piccole, grandi, che operano in settori un po' nuovi, un po' particolari. È stato il caso, quando noi siamo partiti, del cosiddetto terzo settore. All'epoca le banche non lo finanziavano. Dopo Banca Etica è diventato quasi un mercato, possiamo dire oggi, ci sono banche che lo fanno in modo anche assolutamente competitivo e performante, ma gli apri vista siamo stati noi, quando abbiamo deciso di operare prevalentemente offrendo credito al terzo settore. Terza ragione, poi devo andare alla finanza tradizionale a raccontare la borsa di oggi, prima di dare la parola a Nicola Trivelli. La terza ragione sono gli espulsi, quelli che oggi il sistema, ma oggi anche ieri succede stagionalmente, vengono espulsi dal sistema che li tratta male e allora guardano a noi cercando un'alternativa. Hai capito? Quindi se ti dovesse trattare male la banca, raccontamelo, Nicoletta. Io prima porto te. Esatto. E poi vado passo a dirgliene due, dopodiché andiamo a trovare Alessandro Messina a vedere con se piacere. Però adesso, a parte tutti gli scherzi, ovviamente non possiamo neanche buttar via tutto il mondo tradizionale, perché in realtà qualche colosso finanziario una lezione rispetto agli ultimi accadimenti la tratta e quindi si comporta anche un po' meglio con i clienti. Però insomma, tanta strada ancora c'è da fare. E poi vorrei chiedere ad Alessandro Messina, appunto, per esempio, che caratteristiche ha il conto etico, il mutuo etico, il prestito etico, perché comunque poi loro operazioni di finanza normale ne fanno regolarmente. Infatti Gian Massimo da Saluzzo ci scrive come si può e dove contattare Banca Etica. La presentazione l'ha alluzzato. Allora, poi andremo a Nicola Trivelli, l'attività appunto di Sella Gestioni. Intanto 800 24 00 24 per continuare a farci le vostre domande sul mondo che stiamo esplorando stamattina di investire informati. E però intanto io devo anche raccontarvi quello che succede oggi in borsa. Con piacere. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e Denari. Quello che conta in questo sistema è la reputazione, la storia e la reputazione. Ci dispiace quando questo accade, ma di solito quando c'è uno scandalo nel sistema, in realtà il nostro mondo, il mondo della finanza etica e della banca etica, è un mondo che ne trae beneficio, perché la gente guarda di più a questi elementi valoriali come garanzia sulla fiducia e la qualità di una banca. La finanza etica sta diventando mainstream. Perché? Perché i problemi purtroppo ci sono, di sostenibilità ambientale e sociale, e i cittadini hanno capito che il voto col portafoglio in finanza etica non costa di più rispetto a comprare un fondo normale. Votare con il portafoglio è un gran bel concetto, E lo ha espresso Leonardo Becchetti, presidente del Comitato Etico di Etica SGR, che è stato intervistato da TGCom 24 a margine del suo intervento al Salone del Risparmio 2016, al quale appunto anche io e Nicoletta con grande piacere abbiamo partecipato con tre belle trasmissioni. Abbiamo parlato di yoga, abbiamo fatto di tutto in quel contesto. Siamo state molto festeggiate. Esatto. Torniamo il prossimo anno. Allora, senti un po', mi vuoi aiutare con il domandone? Perché mi dà l'opportunità anche di fare la prima domanda a Nicola Trivelli, che è l'amministratore delegato di Sella Gestione. Allora, vi chiediamo: qual è il significato della sigla Fondi SRI? Li chiamano anche SRI, esatto, giusto? All'inglese, ma il SRI. Allora, in realtà il significato lo spieghiamo adesso con Nicola Trivelli. Diamo magari proprio la definizione, l'acronimo. Sigla. Esatto, sì. Qual è la sigla? Quindi mettetevi alla ricerca se vi volete guadagnare oggi l'accesso alla nostra libreria. Allora, dottor Trivelli, Sella Gestioni, io le ho fatto un biglietto da visita all'inizio, ho raccontato cosa avete fatto al Salone del Risparmio, ma perché una banca italiana, appunto nella fattispecie Banca Sella, dovrebbe o ha deciso di avventurarsi sul terreno degli investimenti appunto di carattere etico, che oggi sono definiti socialmente responsabili, no? Ecco, che cosa vi ha mosso verso questa filosofia e soprattutto che tipo di strumenti può trovare un piccolo risparmiatore di questo tipo? Sì, allora sicuramente è una storia lunga, è una storia nel fare banca tutti i giorni da 130 anni. Però diciamo che negli ultimi anni il mercato e gli strumenti finanziari ci hanno aiutato a poter creare un fondo appunto specializzato. Noi siamo partiti nel 99 con il nostro primo fondo etico, dove all'epoca il criterio di eticità era quello di devolvere una parte delle commissioni a dei progetti di associazioni diciamo particolarmente meritevoli su alcune tematiche sociali. Lo abbiamo trasformato successivamente con il criterio appunto di escludere alcuni investimenti che vengono ritenuti dannosi per la socialità nel suo insieme, per poi arrivare l'anno scorso a fare un salto di qualità ancora più forte, perché siamo partiti con il primo fondo impact italiano, di diritto italiano, quindi un fondo che riesce appunto con il report di impatto che abbiamo pubblicato appunto la scorsa settimana al Salone del Risparmio a rappresentare alla nostra clientela gli impatti positivi in 6 tematiche sociali proprio per ogni investimento che è stato fatto dal fondo. Questo vuol dire innanzitutto trasparenza, che è diciamo un valore fondamentale in generale nella finanza, nel fare banca, essere trasparenti con la propria clientela, vuol dire riuscire a individuare quegli investimenti che impattano positivamente sulla socialità e contemporaneamente danno dei buoni rendimenti finanziari. Ecco, ce le racconta quali sono le aree di sviluppo individuate appunto dai vostri fondi sui quali puntate? Allora, noi siamo partiti da 6 tematiche, da 6 macro tematiche. Una è quella di supporto ambientale, che al suo interno prevede investimenti nel settore dell'energia rinnovabile, nel settore acqua, rifiuti e risorse, cioè quindi ottimizzazione dei processi per consumare meno acqua, gestire rifiuti e gestire efficacemente le risorse, la riduzione del CO2 e il tema dell'innovazione vera dell'efficienza energetica, che è uno dei temi fondamentali. Per esempio a questo grande tema è molto legato anche le ultime decisioni, per esempio nella COP21, che ci dicono che nei prossimi anni il mondo è costretto a ridurre il consumo di fossili per andare su energie più efficienti e non inquinanti, perché altrimenti il nostro mondo non esisterà più. Senta, il vostro report di impatto, la interrompo solo perché Nicoletta stava curiosando appunto sul vostro report e c'è una voce che le interessa. Sì, mi è caduto l'occhio necessariamente. Sull'assistenza sanitaria, perché sì, avete investito in questa area e avete contribuito a ridurre il tasso di mortalità infantile. Sì, diciamo che l'assistenza sanitaria è un altro dei mondi importanti, dove oggi c'è la possibilità di investire in strumenti finanziari quotati sui mercati. Per esempio noi abbiamo investito su un cosiddetto vaccine bond, cioè che è un'emissione obbligazionaria che finanzia i vaccini in alcune aree del mondo che purtroppo non possono permetterselo. Nel nostro specifico, il nostro investimento del 2015 ha permesso appunto di incrementare, di fare 48.860 vaccini in aree di paesi emergenti. Ecco, quindi proprio il bello di questa tipologia di investimenti è non solo quella di avere un rendimento finanziario, ma di poter raccontare e riportare in modo trasparente e preciso ai nostri clienti gli impatti positivi del loro investimento. Dottor Trivelli, senta, taglio di investimento minimo di un fondo di questo tipo è un investimento abbordabile anche ad un piccolo risparmiatore? Poi che cosa succede? Noi arriviamo a Banca Sella, andiamo allo sportello e magari ci troviamo l'operatore che contestualmente ci suggerisce un investimento o nel fondo etico o nell'obbligazione subordinata magari un po' più rischiosa? Ma no, direi di no, direi che innanzitutto l'accesso è veramente a bassissimo costo, perché il prodotto è disponibile per qualunque task, è stato creato proprio per il mercato del retail, diciamo che da 500 euro in su possiamo investire. I colleghi e in generale tutti i collocatori che hanno a disposizione questo prodotto lo possono proporre proprio nel momento in cui c'è un'esigenza che viene sempre più manifestata dai clienti, di capire meglio dove vanno gli investimenti, avere una trasparenza e diciamo di avere anche un impatto sociale misurabile. Ecco, devo dire che l'anno scorso per noi è stato un anno importante da questo punto di vista, la risposta dei clienti è stata veramente importante, entusiastica su questo prodotto. E insomma, un mondo che cresce e a cui guardiamo con grande interesse. Peraltro vi racconto anche un'altra curiosità: Banca Sella ha 130 anni di storia e in tempi recenti appunto si è lanciata con il fondo etico, con il mondo dei fondi etici, ma in realtà il primo fondo etico in assoluto mondiale è nato in America nel 1928, era il Pioneer Fund di Boston. Mi hanno raccontato che questo fondo è ancora pienamente operativo, continua a fare raccolte e gestione, ed era un fondo che aveva l'intento di non investire nell'industria delle armi, dell'alcol, del gioco d'azzardo, nel tabacco. E insomma, da quel momento ne è stata fatta di strada, però scopriamo che in realtà è l'Europa attualmente l'area geografica dove gli investimenti socialmente responsabili hanno preso piede in misura più evidente. È un mondo anche, volevo segnalare un'altra cosa, che se proprio ne volete sapere ancora di più ha anche dei rating, quindi tutti i fondi a livello mondiale hanno la pagella delle società di rating, ci sono in realtà delle società specializzate che fanno questo lavoro su questo mondo, e in Italia la società appunto che attribuisce la pagella ai fondi etici è CFS Rating, per cui se volete avete anche quest'ulteriore strumento per andare a documentarvi. Allora, un minuto per Alessandro Messina, ce l'ho prima di sentire i nostri ascoltatori. Sì, ad Alessandro Messina vorrei leggere il messaggio via WhatsApp che arriva da Lisa da Treviso, sì, che possono utilizzare un po' come quasi come una campagna pubblicitaria. Senti, socia, ma mi ha suggerito una domanda. Allora, Lisa da Treviso, socia cliente felice di Banca Etica. Vale la pena essere cliente non per mettermi la coscienza a posto, ma per dare un futuro positivo ai nostri figli. Così ci scrive. Allora io mi chiedevo, per essere cliente bisogna anche essere soci? Messina. Assolutamente no. Oggi c'è un orientamento che privilegia la mutualità, nel senso che il socio ottiene delle condizioni più favorevoli, perché ovviamente cerchiamo di costruire una comunità finanziaria che si senta tale. Il socio partecipa alla vita della banca, vota in assemblea, ma oltre a questo, diciamo così, siamo inclusivi per definizione, come dicevo prima. Quindi chi si voglia approcciare gradualmente, conoscerci, semplicemente aprendo un conto corrente, può benissimo farlo. Considerate che, mi aggancio anche a ciò che dicevate prima sulle crisi delle altre banche, eccetera, negli ultimi 3 mesi, senza fare nessuna campagna promozionale, abbiamo aperto 2000 conti correnti, più della metà dei quali da parte di persone che si sono collegate sul nostro sito e hanno aperto il conto online. Sai che cosa mi fa venire in mente questa cosa? È un pochino, mi indispettisce anche che comunque, se vogliono le persone, che stiamo sempre a ossessionare con tutto il ragionamento dell'educazione finanziaria, che non sanno, che non si informano, ma lo vedi che invece se hanno voglia si muovono, si danno un attimino una scrollata dalla pigrizia, cercano delle cose diverse rispetto al tradizionale, quindi si attivano in prima persona, perché il trend che ci ha raccontato Messina è interessante. Non che adesso tutti debbano scappare dalla banca tradizionale e correre verso quella etica, ognuno fa la scelta che vuole, può però per esempio negoziare un po' di più con la banca tradizionale se li vuole rimanere, se magari ha il suo interesse perché ha tante operazioni in corso e gli risulta anche oneroso spostarsi, però se vogliono, hai voglia, vedi che si muovono. Che ti dice questo suggerimento? Io leggo il bicchiere mezzo pieno e ti dico, hai visto che a forza di seminare cuore denari dai suoi frutti? Esatto. Strade! Cuore e denari. Rischia tutto. Peraltro tra poco parte quello di Fabio Fazio. No, stasera se non sbaglio. Giovedì, stasera, venerdì. Ma tu guarda che gli facciamo pure pubblicità adesso. Se la merita, dai. Se la merita perché è simpatico, ma dovremmo anche invitarlo, magari così almeno lo movimentiamo un po' con il nostro di Rischia Tutto. Il nostro con domandone piacere di oggi invece era, Nicoletta, il significato della sigla Fondi SRI. 800 24 00 24, dovete per forza telefonarci se vi volete guadagnare un libro della nostra nutritissima biblioteca, che ha tanti libri, ne ha anche qualcuno di finanza etica, come per esempio, dottor Messina, noi abbiamo Finanza per indignati di Andrea Baranes, che lei conosce bene. Certo. E tanti altri ancora. Volevo un altro dare anche questa notizia appunto curiosa che avevo anticipato ai nostri ascoltatori. È partito il 19 aprile e si svolge per 5 settimane questo corso online. Vi devo dare purtroppo i riferimenti in inglese, ma su Facebook e sulle nostre pagine appunto di Cuore e Denari vi abbiamo già messo tutti i riferimenti. Questo corso online si chiama Just Money Banking as if society mattered. È offerto in collaborazione dal Massachusetts Institute of Technology, il MIT di Boston, e il Global Alliance for Banking on Values. Questo è un network mondiale di banche orientate alla sostenibilità, di cui Messina Banca Etica mi pare è unico istituto di credito italiano che appartiene a questo network. Siamo tra i fondatori, siamo insieme ad altre banche europee alternative che da anni operano, come la Triodos ed altre, e sta crescendo molto ed è molto interessante perché c'è Ci sono momenti di confronto assai utili, perché ormai la finanza è globale e quindi anche la finanza alternativa deve pensare infatti, globale. E questo che ho citato è un MOOC, è un Massive Open Online Course, e sono questi corsi aperti e disponibili in rete, sono pubblicati dalle più importanti università del mondo sulle tematiche più disparate, si accede da molte piattaforme con una semplice registrazione. Per chi volesse saperne qualcosa di più, stiamo condividendo appunto un link sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Detto questo, i fondi etici, sia quelli che distribuisce Banca Etica, sia quella che distribuisce Sella Gestioni, quanto rendono? Perché poi alla fine in soldoni non è che questi lì, che i risparmiatori che vanno a sottoscrivere i fondi etici siano proprio così non tentati anche di portare a casa qualche soldino. Allora, Trivelli, vengo a lei su Sella Gestioni. La vostra esperienza in questo senso che cosa racconta? Si accontentano di un po' di meno i fondi etici perché naturalmente lo spirito di investimento è tutto diverso rispetto a quello della finanza tradizionale? Che, come dice, track record avete in questo senso? Perché anche qua devo scomodare di nuovo la terminologia in inglese. No, non si accontentano di un rendimento minore. La sfida nostra è stata proprio quella di costruire un prodotto, un fondo che abbia un'efficienza dal punto di vista finanziario come i migliori fondi di sistema, e quindi poter investire in strumenti finanziari liquidi, efficienti, che diano buoni rendimenti, e dall'altra, nella nostra esperienza appunto di società di gestione, di gestirne i rischi, quindi poterne coprire le volatilità e quindi far sì che il prodotto sia compatibile col portafoglio medio del cliente cosiddetto normale, cioè quello che vuole una crescita del proprio patrimonio senza troppi rischi, senza troppa volatilità nel tempo. Un aspetto forse il cliente che è più predisposto a questo tipologia di investimento ci può dare proprio un'ottica di investimento magari di un pochino più medio periodo, cioè è più disponibile rispetto al mordi e fuggi che ogni tanto ahimè, i nostri clienti sono portati dovete diciamo, combattere avere, anche voi con questo, anche se il fondo tradizionale mordi e fuggi sì, no, vabbè. Le antenne si sono rizzate. L'anno scorso il prodotto è riuscito in un mercato che non è stato molto molto semplice, aveva un rendimento sopra il 3%, quindi con i tassi del mercato obbligazionario a zero, accontentiamoci. Con una volatilità diciamo mercato obbligazionario, quindi direi contenuta, certo. In questo senso credo che la clientela sia contenta per questo. Poi ripeto, l'altro aspetto che è poi quello fondamentale dal nostro punto di vista è quello di poter dare anche la soddisfazione di verificare la positività dell'investimento sul mondo che ci circonda, ecco, quindi su quei famose sei tematiche di cui parlavamo prima. Allora, grazie Nicola Trivelli. Ho una domanda adesso di Andrea da Ferrara per Alessandro Messina, perché qua gli è capitato un pochino un inghippo con perché qua non è che possiamo farvi per tutta l'ora solamente complimenti certo. E raccontare quanto siete bravi, l'investimento etico, tutti i principi di sostenibilità e quant'altro. Andrea invece ha qualche cosina da lamentarsi. Andrea, benvenuto. Sì, buongiorno. Rapidissimo, buongiorno. Se ce la fa, grazie, che stiamo chiudendo. Sì, rapidissimo, vorrei chiedere al signore lì di Banca Etica, ma a tutto il sistema bancario, per quale maledetto motivo non vogliono aprire conti ai compro oro su base. Che cosa abbiamo? La lebbra? Siamo dei lebbrosi viventi? Perché lei ci ha provato. Allora, ammettendo che anche Banca Etica mi ha detto che l'attività non è gradita, ma gradita a chi? A che cosa? Andrea. Tanto più che siamo obbligati a pagare gli F24 in banca. Ecco, oltretutto. Aspetti un attimo, io capisco che lei sia inalberato. Magari è in macchina. Perché... Esatto, no, capisco. Allora, magari Banca Etica avrà anche le sue ragioni che ci hanno anche spiegato prima, ma anche la tradizionale non vi fanno aprire un conto corrente? La maggior parte del sistema bancario italiano oggi è contro il commercio dell'oro. Il motivo lo saprà solamente loro, non lo so. Allora, il compraoro, diciamo, avete avuto questo boom anche di aperture qualche anno fa, proprio in concomitanza con l'esplosione della crisi finanziaria, quando molte famiglie si sono trovate in difficoltà e molti hanno visto con grande sospetto tutto questo attivismo. Chiusa parentesi, Messina, io non dico niente. Credo che ci sia un impatto, adesso rispondendo in generale, credo che ci sia un impatto di cautela rispetto alle implicazioni che sicuramente sia le autorità di vigilanza sia le autorità finanziarie ci chiedono di avere come banche in generale, qui parlo delle banche, rispetto a certe attività. Quindi può essere che il signore qui collegato ha avuto delle risposte negative collegate a ciò. Certo. Nel caso nostro di Banca Etica sicuramente non è un tipo di attività che è in ambito di nostro interesse. Come dicevo prima, noi selezioniamo le attività anche in funzione del campo, del settore, del tipo di impatto, eccetera. Diciamo che se dovessero entrare fra gli esclusi ci interesserebbero. Senta, però. I giornalisti li accettate, perché sa, pure quelli non è che si comportino sempre tanto non bene. Non mi pare, non esagererei. Grazie, grazie ad Alessandro Messina. Stiamo chiudendo, giusto il tempo di sentire se Paolo da Milano ha la risposta giusta al nostro domandone di oggi. Intanto Paolo, buongiorno, qual è il significato della sigla SRI o SRI all'inglese? Comunque lo stesso, ce lo dica all'inglese, va, ci faccia sentire quanto è bravo. Buongiorno a tutti, non lo pronuncio bene come lo pronuncia Deborah. Sì, figuriamoci. Con l'acronimo SRI dall'inglese Sustainable and Responsible Investment. Responsible Investment. Gli abbiamo già fatto l'applauso, volevo sentire se Nicola Trivelli appunto lo promuovesse. Perché già sapevamo. Trivelli, sì, lo promuoviamo. Non abbiamo potuto dire noi prima perché sennò rovinavamo il gioco. Che bravo, hai visto come si sono anche loro adattati al nostro spirito giocone e giocoso di Cuore e Denari. Ma è necessario anche utilizzare questo linguaggio per far passare certi messaggi. Noi lo facciamo sempre molto volentieri. Grazie ad Alessandro Messina, Nicola Trivelli per essere stati con noi. Abbiamo scoperto qualcosa in più della finanza etica. Noi ci sentiamo domani. Che mi lasci da sola, peraltro. Sì, perché, vi sentite perché con Deborah. Perché vai a ritirare, si può dire? Sì, andiamo a ritirare un premio della Brava. Fidas. Ci teniamo per molto. Radio TV. E quindi grazie. Ottimo, allora ti lascio andare un po' più volentieri, però ritorna lunedì. Lunedì.